e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Cuore Denari. Nicoletta, buongiorno anche a te. Buongiorno Deborah, un saluto anche ai nostri amici, alle nostre amiche che ci seguono da casa. Noi siamo, diciamolo, sempre più social. E allora ne approfitto, sì, dai, che fatica. Diciamolo con prudenza io e te. Che faticona, comunque. È vero. Vogliamo salutare anche chi ci segue su Facebook e su Twitter. Sì, esatto, andate a mettere i vari like. Brava, condividete il i post, ecco. E voglio salutare i nostri amici e soprattutto raccontarti di una ricerca proprio Sentiamo. Su Twitter, che è molto carina, che ha preso in esame le foto profilo di 66.000 utenti. Magari c'era anche la nostra faccettina. Ma che ne sai? Guarda. Perché siamo carine. Dobbiamo scandagliarle tutte 66.000. Allora, l'idea è che insomma anche la foto del nostro profilo Twitter acchiappa, quindi speriamo di acchiappare anche con la nostra. Andate a vederci, mettete, no, diteci che siamo brave, ecco, e mandateci un abbraccetto che fa sempre bene, scalda Ma, il cuore. Tra l'altro, sai cosa mi hai fatto venire in mente? Allora ti ricordo, settimana scorsa siamo state all'IT Forum, questo grande evento del trading online, e mi sono vantata molto per aver intervistato questo super personaggio della Banca Centrale Americana, il signor Mark Jensen. Anche lui si sta vantando tanto di essere stato intervistato da te, lo sai? Guarda che ci siamo scambiati i biglietti da visita, facciamo attenzione. Ma mi ha chiamato. No, ma la cosa divertente, adesso a parte le nostre così colorite affermazioni, è che in realtà sono andata a guardare sul suo profilo Twitter. Vedi? E praticamente ha una foto, già è venuto lì informalissimo con la sua giacca, con la sua camicia a scacchi, sembrava veramente un pescatore, l'ultimo degli arrivati a quella manifestazione, ma sul suo profilo Twitter ha una bella foto, ridente in compagnia del suo cane, quindi lo possiamo certamente classificare fra i più socievoli amici che abbiamo. Partiamo con la nostra segna stampa, che stavo è meglio. Stavo pensando se la prossima foto inseriamo anche la Immona tra me e te. La Immona? Dai. Dai, mettiamola. E la rassegna stampa di stamattina parte con le importanti notizie che arrivano dal mondo dei denari. Borse positive stamattina in tutta Europa, Francoforte in rialzo di un punto, è arrivato l'IFO tedesco che a maggio è salito a 107,7 punti, è un importante indice di fiducia che viene monitorato in Germania. Poi Parigi guadagna lo 0,76%, Londra più 0,64%, Milano guadagna quasi un punto, tanto per cambiare, per i forti rialzi che stamattina stanno maturando fra i titoli del settore bancario. UbiBanca più 4,62%, poi ieri il via libera dai rispettivi organi di amministrazione appunto per la fusione fra Banco Popolare e Pop Milano, che guadagnano fra i 3,5 punti e i 3 punti, e abbiamo sotto i riflettori Unicredit più 1,64%. Ieri con Marco Ferrando del Sole 24 Ore ne abbiamo parlato a lungo, anticipando tutte le notizie che sono poi arrivate nel pomeriggio dal consiglio di amministrazione straordinario della società, dal quale è emerso che sono maturate le condizioni per un avvicendamento alla guida del gruppo, e quindi esce di scena Federico Ghizzoni, che però manterrà le sue funzioni fino alla nomina del suo successore. La nuova nomina è in mano ora al comitato nomine del gruppo. Il titolo ieri già ha avuto un buon rialzo, anche oggi guadagna oltre 1,5 punti a 3,10 euro. Tra i ribassi invece più significativi di stamattina segnaliamo Banca Mediolanum meno 1,8, Jux e Net-a-Porter meno 1,47, Moncler meno 1,26%. E il mercato questa mattina è abbastanza contento, anche perché dopo una riunione durata ben 11 ore i ministri delle finanze della zona euro hanno raggiunto a Bruxelles l'accordo per dare alla Grecia nuovi aiuti per oltre 10 miliardi di euro. Una prima tranche di 7,5 miliardi verrà versata in giugno, il resto dopo l'estate. Nel contempo hanno trovato una sofferta intesa con il Fondo Monetario Internazionale per alleggerire progressivamente l'elevato debito del paese mediterraneo, che è pari circa al 180% del PIL. La casa. Quante volte abbiamo parlato dell'importanza di conoscere il valore catastale corretto degli immobili, per esempio per il pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti? Allora, a questo proposito c'è una novità interessante, perché l'Agenzia delle Entrate rilascerà a breve online un software in grado di calcolare la superficie catastale. È un nuovo strumento che servirà ai contribuenti per verificare effettivamente la rendita catastale del proprio immobile basandosi sull'estensione in metri quadrati. Funzionerà grazie ad un archivio digitale nel quale saranno inseriti circa 57 milioni di immobili. I contribuenti potranno accedervi solo se dotati di tutte le credenziali per accedere a Fisco Online, e quindi potranno verificare se è corretta la base imponibile che viene utilizzata dall'amministrazione comunale per farci appunto pagare la TARI. Ieri abbiamo parlato con i dati dell'indice di solidità economica delle famiglie elaborata dai dati dell'indice Confesercenti ed SVG del timido ottimismo che inizia a farsi largo fra le famiglie italiane sul fronte delle previsioni dei consumi. Al contrario, troviamo però anche un bicchiere mezzo vuoto da parte di chi investe sui mercati finanziari, perché gli italiani risultano essere fra i più pessimisti in ambito europeo circa le attese di rendimento per l'anno in corso. Questo emerge da un'indagine diffusa da Legg Mason, una società di asset management, giunta questa indagine alla quarta edizione. Si tratta di una Global Investment Survey ed è basata sul sondaggio di 5.000 persone in 19 paesi. E peraltro, proprio a proposito di sfiducia nel mondo del risparmio, questa porta molti risparmiatori ad investire in oro, ed è l'approfondimento che faremo nella seconda parte oggi di Cuore e Denari a partire dalle 11.35 circa. L'ultima notizia, la nostra rubrica dedicata all'educazione finanziaria, che vi invitiamo ad arricchire con le vostre segnalazioni su tutto il territorio italiano e non solo, scrivendoci a cuoredenari@radio24.it se ne avete notata qualcuna in giro, se avete intenzione di seguirne qualcuna. Oggi guardiamo fuori dai confini italiani, è un po' tardi per raggiungere la capitale belga, ma insomma, se volete andare a Bruxelles stasera alle 18.30 c'è questo convegno sul sistema bancario italiano ed europeo nell'attuale contesto economico-legislativo. È una iniziativa voluta dall'associazione alumni Luis Guidocardi e Bocconi di Bruxelles. Questa sera, appunto, come vi dicevo, a Bruxelles ci sarà anche, tra i vari personaggi che interverranno, il professor Beppe Ghisolfi, vicepresidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, e autore di un importante manuale, appunto, sull'educazione finanziaria, che presto vi presenteremo anche a Cuore Denari. E allora passiamo alla rassegna stampa di Cuore. Oggi è la giornata mondiale della sclerosi multipla. Perché parliamo di questa malattia? Vi invitiamo a riflettere anche sui dati di questa patologia, che è la prima causa di disabilità nei giovani, pensate, dopo gli incidenti stradali. Colpisce un giovane ogni 4 ore. Sono persone che hanno tra i 20 e i 40 anni. I numeri ci dicono che sono 3 milioni nel mondo le persone che hanno ricevuto una diagnosi, 600.000 in Europa e oltre 110.000 sono in Italia. È proprio sulla loro storia, sui loro diritti, sui loro bisogni che quest'anno si accendono i riflettori della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla. Lo slogan della settimana è: la sclerosi multipla non si ferma. Per sottolineare ancora una volta l'importanza della ricerca, perché proprio grazie ai progressi della scienza si può consentire a ogni persona una vita in cui sia possibile essere indipendenti. Per tutte le iniziative della settimana potete andare sul sito aism.it. Naturalmente è molto social la campagna di quest'anno, trovate tutte le indicazioni sul sito. Parliamo di allenatori, non di pallone ma di salute. È un allenatore alleato di salute, il titolo del progetto voluto dalla Società Italiana di Pediatria, della Fondazione Insieme Contro il Cancro e di Senior Italia Federanziani. Obiettivo è promuovere corretti stili di vita fra gli adulti di domani. Proprio ieri abbiamo parlato dell'importanza di investire nella salute degli adolescenti. Abbiamo già detto che è difficile far seguire loro una dieta ricca di frutta e verdura, ma non solo. Abbiamo degli adolescenti un po' difficili. Secondo i dati, i giovani non brillano non solo per il loro stile di vita sano, ma anche perché il 13% dei teenager fuma regolarmente, più del 10% beve troppi alcolici e il 20% dei quindicenni è in sovrappeso. Ma tutti insieme possiamo fare qualche cosa per aiutare i nostri ragazzi a crescere meglio. Dobbiamo mettercela tutta. Adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi ritorniamo subito dopo insieme. Cuore e Denari. Allora, mettiamola in Mona nella nostra foto del sì, profilo infatti. Di Twitter, e poi ci invitiamo a cena Barack Obama. Che dici? Ma guarda, i presidenti democratici americani a me hanno sempre affascinato. Io sarei anche andata a cena volentieri con Clinton, nonostante quello che si è sempre detto di lui. E quindi cosa forse per che... quello. Probabilmente. Senti, comunque, io appunto su Obama, perché mi ha incuriosito. L'abbiamo letto su tutti i giornali, sì. Perché insomma, quello che fa il presidente americano, insomma, alla fine fine, no? Lo leggiamo anche noi. Recentemente, nel corso del suo viaggio in Vietnam, ha cenato con il cuoco e scrittore americano Anthony Bourdain con $6, birra compresa. La cena si è svolta in questo piccolo locale, che per me ha un nome impronunciabile, provo, Bun Chau Wong Lien. L'ho fatto di corsa così. Hai fatto un corso accelerato di vietnamita. Ci sono le sedioline di plastica, eccetera, dove si mangiano. Sembrano quelle dell'asilo. Brava, ti pensi? Allora, spaghetti di riso con maiale e verdure, $6 con birra, $6 che equivalgono a quanti euro? Poco più di 5, insomma, intorno ai 5 euro, e che ovviamente ti permettono in certe località di mangiare anche discretamente, come quelle qui a Malapena, facciamo colazione e tè domani mattina, no? Speriamo che se porta fuori Michel paghi un po' di più, anzi, tra l'altro non ha neanche pagato lui, mi pare, questa cena da $6, ha pagato lo scrittore, però insomma noi è incuriosito questa notizia, abbiamo fatto un equivalente italiano non solo in colazione, praticamente questi $6 sono anche l'equivalente italiano di un buono pasto. Vedi. Abbiamo parlato tante volte di buoni pasto a cuore e denari, perché negli ultimi mesi c'è stato un grande dibattito sul loro utilizzo, la loro cumulabilità, la possibilità cioè di usarne più di uno alla volta, la possibilità di utilizzarli per fare la spesa al supermercato in alternativa a bar e ristoranti. Insomma, è un tema che interessa molti italiani, 2.300.000 lavoratori. È un mercato da 2 miliardi e 700 milioni di euro. I buoni pasto sono utilizzati in 150.000 negozi. Oh, sì. E poi è una filiera che rappresenta lo 0,72% del PIL italiano e 190.000 posti di lavoro fra lavoro diretto ed indiretto. Tutto questo per dire che abbiamo chiesto ad Andrea Keller, l'amministratore delegato di Edenred Italia, che è il gruppo inventore del Ticket Restaurant. Una bella invenzione. Esatto. Peccato che non ci è venuto in mente a noi un po' di anni fa. Ma dovremmo inventarci qualcos'altro. Allora, abbiamo fatto un veloce vademecum sull'utilizzo dei buoni pasto in Italia e le ultime novità. Innanzitutto il buono pasto è dato dall'azienda direttamente ai lavoratori per ogni giorno lavorativo, diciamo, effettuato, quindi è uno al giorno. Il buono pasto può valere tra i 5,29 euro per il buono pasto cartaceo, 7 euro esentati per il buono pasto elettronico. Questa differenza è stata introdotta l'anno scorso per favorire la diffusione del digitale e dell'innovazione in Italia. Il buono pasto può essere utilizzato presso più di 150.000 ristoranti, ma anche presso dei supermercati. Qual è l'unica condizione? Il buono pasto è utilizzabile solo per acquistare prodotti alimentari di immediato consumo e quindi è proprio una soluzione, un sistema destinato alla pausa pranzo. Stiamo vivendo una grossa rivoluzione, dal buono pasto cartaceo stiamo passando al buono pasto elettronico, è un sistema che è molto incentivato dallo Stato italiano perché è totalmente defiscalizzato sia per l'azienda che per il lavoratore e ben presto, già nel corso di quest'anno, si vedranno i primi buoni pasto elettronici su mobile, quindi su smartphone, circolare. Differenza rispetto al cartaceo? Nessuna. Se da una parte abbiamo il carnet cartaceo, dall'altra abbiamo un carnet, diciamo, elettronico, che può essere o in una card, questo già si vede, o altrimenti nel proprio telefono cellulare, attraverso il quale si potrà pagare direttamente presso i punti vendita convenzionati. Allora, avete capito tutto? Allora, non hanno più segreti questi buoni pasto per noi. Però, oltre al buono pasto, con la stessa cifra si può preparare un pasto buono. Hai capito? Un po'. O meglio, stellato. Abbiamo chiesto ad Andrea Ribaldone, il nostro chef stellato dei Due Buoi di Alessandria, grande amico di Cuore Denari, di raggiungerci e di mettersi al lavoro con noi. Ciao Andrea. Ciao Nico, ciao a tutti, buongiorno. Allora, devo dire che Andrea, tu giochi facile, perché la sfida che ti lanciamo oggi e che ti lancia anche un po' Obama, chissà mai che la prossima volta venga a mangiare da Andrea e noi e Andrea ci inviterà, ti ha già visto protagonista perché tu sei stato chiamato dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per creare proprio un menù che non superasse i 5 euro. Esatto, è un'esperienza molto bella perché hanno mangiato tutti i ragazzi dell'università con questo menù che ho proposto per una settimana intera, 3 piatti con un costo food minore di 5 euro. E quindi non è facile, ma al tempo stesso è anche bello poi da realizzare. Senti, in queste cose poi invitaci, perché no, noi facciamo i topi assaggiatori. Le cavi. Benissimo, prossima volta vi manderò un invito ufficiale. Va bene, e noi portiamo amici. Senti, allora, con meno di 5 euro, cioè meno del buono pasto, quindi 5,80 euro, ancora meno di 5,80 euro per realizzare un menù che, Andrea, noi prendiamo appunti, vai. Allora, vi racconto due dei piatti che ho realizzato appunto per i ragazzi dell'Università di Poletto. Il primo è una zuppa di pane. Pane raffermo che avete in casa, magari avanzato, oppure anche pane fresco se volete. Un brodo vegetale, quindi un brodo fatto con carota, sedano, cipolla, un bel brodo saporito vegetale. Bagnate il pane abbondantemente, poi frullate il tutto aggiungendo un uovo e una manciata di parmigiano. Questa è una zuppa che si usa in tutta la pianura padana, c'è chi la chiama la panada, zuppa il di pane, pancotto, insomma, nelle Marche. Un pancotto, bravissima, da tutte le parti, insomma, si fa, perché una volta non si buttava via niente, chiaramente. Diventa molto saporita, aggiungiamo alla fine qualche erba aromatica fresca, ad esempio la maggiorana, oppure anche un po' di rucola a dare una nota amara, un goccino d'olio, cuociamo ancora leggermente in modo che l'uovo non sia proprio crudo, vedrete che sarà una bella sorpresa, perché è davvero devo dire molto che buona. È anche molto nutriente, ma se io aggiungessi anche un po' di curcuma, perché ormai io vado di curcuma, Andrea. Le spezie sempre a piacere, tutte quelle che volete. Okay. La curcuma, come dici tu, fa molto bene. Poi colora un po'. Perché no? Colora un po', brava. Allora, e dopo poi anche qualche seme, se volete, quindi semi di zucca, di lino, vanno benissimo. E ricordate, nel brodo vegetale, Andrea me l'avevi detto, di mettere la cipolla già vestita, perché dà un colorino al brodo, vero? Mamma mia, ti ricordi tutto e questo mi fa le molto piacere. Le so tutte! Lavate la buccia e poi anche la buccia dentro, perché subito dà questo colore intenso e quindi rimane veramente bello anche da vedere il brodo, anche da servire puro. Senti, allora, bene. Dopo questa zuppa di pane però, che dopo cosa? La zuppa di pane vi proporrei questo piatto con una verdura che adesso comincia la sua stagione, le melanzane. Quindi una melanzana la tagliate, fate dei cubi o dei bei rettangoli spessi, poi in padella forte con un goccio d'olio su tutti e quattro i lati, deve essere tostata esternamente e all'interno rimanere leggermente cruda, quindi come se fosse un tataki, si dice, perché è cotta fuori, tataki, adesso, insomma, la vedi cucina che ormai giapponese di grande moda, e quindi esternamente tostata, dentro leggermente cruda, ha un sapore unico, la servite proprio come un secondo, come se fosse una bistecca di melanzana, quindi se volete con i ritagli di melanzana che avete, li fate cuocere con un goccio d'olio e un goccino d'acqua, frullate il tutto ad ottenere una bella crema di melanzane, quindi sotto la crema e sopra questa melanzana tostata, è un secondo che vi stupirà. Fantastico, quindi il tutto a meno di 5 euro. Sicuramente molto meno di 5 euro. Molto meno e con grande soddisfazione. Deborah, sì. Tu cosa fai, la melanzana? O vuoi fare la zuppa? Allora, sai che io purtroppo con i carboidrati, il frumento, quelle cose là sono un po' in difficoltà, vado di melanzana. Ecco, vabbè, però puoi preparare anche la zuppa per me, che la mangio io. Naturalmente con la curcuma. Grazie ad Andrea Ribaldone per essere stato con noi. Grazie, Andrea. Grazie a voi, ciao, un abbraccio. Ciao, un abbraccio forte. Ciao. Bene. E noi ci abbracciamo, fatto. Ma torniamo divincolate da questo abbraccio dopo il giornale radio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Vivacissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Cuore e denari. Ogni volta che vedo il mare provo qualcosa di strano. Non so, come un senso di... ma... sarà lo iodio. No, non è che lo odio. Parliamo di iodio, ma non solo. Iniziamo a parlare di sale e poi parleremo anche di un sale che viene arricchito di iodio. Oggi ne sapremo un po' di tutti i colori. Ci sono anche i sali, Deborah, sono colorati. Sì, io ne ho quasi tutti. Li hai tutti veramente? Sì. Rosa, quello dell'Himalaya, ce l'hai? Ho quello grigio di Bretagna. Non ho il blu di Persia, ma devo cercarlo. E il rosso delle Hawaii? Ce l'ho avuto, l'ho terminato. L'ho anche usato un po', parecchio anzi. E il nero di Cipro? No, neanche il nero di Cipro. E allora, me ne dai, mancano due. Allora, e voi quale sale usate e quanto ne usate? Sentiamo. Quello che vendono ai supermercati. Dietetico. Normale. Marino iodato, credo, una roba così. Normale. Quello grezzo. Iodato. Fino. Quello che capita. Grosso. E iodato. Integrale. Fino. Grosso e fino. Io non lo uso. Fino e grosso da cucina. Quali sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Fino, grosso, integrale, non lo uso. Allora, una cosa ho capito in tutti questi anni, che bisogna usarne poco e di quello giusto. Ma ne parliamo oggi con il professor Alfredo Pontecorvi, ordinario di endocrinologia presso l'Università Cattolica di Roma Policlinico Gemelli e presidente dell'Associazione Italiana della Tiroide. Professore, buongiorno. Seguo i radioascoltatori. Professore, allora, intanto poco, ma quanto poco? Diciamo che la quantità di iodio che si raccomanda di sale. Ecco, la vede, perché lei è un endocrinologo e già subito iodio, vedi, ha detto subito io, perché sì. Lui no, ha a cuore, cioè lui fa tutto per quella ghiandolina lì. Allora, prof, sale? Sono circa 5 grammi al giorno, ma teniamo presente che gran parte del sale è presente in ciò che mangiamo normalmente, in ciò che beviamo. La qualsiasi acqua da bere contiene sodio, contiene cloro. Le verdure contengono il sale anche se noi non ce l'aggiungiamo, idem per la carne o per il pesce. E poi c'è tutto quello che... E poi se ne può aggiungere, che... ma bisogna aggiungerne poco, perché si sa che la ritenzione idrica può far aumentare la pressione arteriosa, quindi è sconsigliato soprattutto in queste persone. Quanto al tipo, professor Pontecorvi, se lo chiede ad un... Noi diciamo, ma non siamo solo noi a sostenerlo, che se bisogna introdurre del sale aggiunto, questo deve essere iodato. E questo per legge dovrebbe essere così anche in Italia. Nel 2008 è stata promulgata questa legge che impone ai supermercati e punti vendita di vendere il sale iodato, impone alle ristorazioni pubbliche di averlo sulle mense aziendali, sulla tavola delle mense aziendali. Infatti chiediamo ai nostri... Scusi prof, le disturbo un attimo. Cosa dici? Chiediamo ai nostri ascoltatori, abbiamo parlato prima di ticket, chiediamo se nelle loro mense trovano il sale iodato. Magari poi ci mandate le foto. Mi scusi professore, l'ho interrotta. Intanto i nostri ascoltatori, perché ci teniamo un po' sempre in contatto con i nostri ascoltatori. Quindi è importante, lo troviamo in tutti i punti vendita, arricchito da iodio, ma che cosa rende speciale questo minerale, professore, al punto da giustificarne la sua aggiunta? Perché lo iodio è così importante? È importante perché è l'ingrediente principale degli ormoni tiroidei. Gli ormoni tiroidei sono di fatto degli aminoacidi modificati con l'aggiunta di 4 o di 3 atomi di iodio a formare rispettivamente la T4 e la T3. Se invece noi introduciamo meno iodio, tendiamo a produrre meno ormoni tiroidei. Allora il nostro cervello se ne accorge, lo valuta e risponde stimolando la tiroide a produrne di più e facendola ingrandire, quindi causando il gozzo. Il gozzo è l'aumento di volume della tiroide che in genere poi nel tempo si estrinseca con la formazione di noduli. Quindi il gozzo, i noduli della tiroide, soprattutto in zone come l'Italia, dove sono zone a carenza iodica, in cui nel terreno, in ciò che si mangia, in ciò che si beve, c'è poco iodio, si tende ad avere tiroidi di volumi maggiori e piene di noduli rispetto, per esempio, a paesi come il Nord Europa o gli Stati Uniti d'America, dove anche grazie proprio alla iodoprofilassi con il sale iodato, la popolazione assume la giusta quantità di iodio. Quindi è una sorta di prevenzione. Se noi utilizziamo il sale iodato, assicuriamo anche alla nostra tiroide di poter funzionare bene. Perché lo iodio, da quello che lei mi ha raccontato, professore, possiamo un po' paragonarla alla benzina, no? Di questa ghiandola. Che... Esattamente, ecco. Esattamente. La sostanza che trasforma un aminoacido modificato in un ormone. Allora, arrivano naturalmente già gli SMS e i WhatsApp. Allora, intanto Salvatore ci scrive che per rifornirsi di iodio consuma l'alga kombu. Professor Pontecorvi, lei è d'accordo? Sì, però bisogna fare attenzione perché le alghe contengono quantità a volte eccessive di iodio. Le alghe lo concentrano al loro interno. Tutti sappiamo che c'è più iodio nell'acqua di mare piuttosto che nel terreno. E questo è dovuto al fatto che lo iodio si ritrova negli strati più superficiali della nostra terra e quindi nel tempo è stato lavato via dalle piogge ed è finito in mare, quindi nell'acqua di mare ce n'è di più. Ora, non è che noi beviamo l'acqua di mare perché così introdurremo lo iodio, ma mangiamo i prodotti degli animali che sono nel mare, cioè i pesci e le alghe. E le alghe in particolare tendono a concentrarlo molto, quindi se si fa un uso specie se eccessivo di alghe, si rischia di avere l'effetto opposto, cioè di avere un eccesso di iodio. E l'eccesso di iodio non va bene perché può inibire la funzione della tiroide, poco ne serve per stimolarla. Perché insomma questa ghiandolina è un po', no? Troppo non le va bene, poco non le va bene, bisogna... Ecco, è molto esigente. È molto esigente, è femmina, però se noi spesso leghiamo il malfunzionamento della tiroide alle donne, è un problema femminile, ci sono anche delle novità per gli uomini all'ascolto, tra poco il professor Pontecorvi vi racconterà di una ricerca che è stata fatta qualche anno fa, ma che mette sull'attenti anche gli uomini. Ma professore, io come faccio a capire se assumo le giuste quantità di iodio? Ci sono degli esami che mi permettono di farlo oppure no, lo capisco dai valori dei valori della tiroide? No, diciamo che quando c'è una carenza di iodio, diciamo, di grado lieve, moderato, perché quando la carenza è davvero grave, come quelle che si osserva per esempio in alcune zone dell'Africa o in parti interne della Cina, allora lì manca lo iodio, mancano gli ormoni tiroidei, è un vero ipotiroidismo da carenza di iodio. Da noi la carenza di iodio è lieve, moderata, quindi uno non se ne accorge facendo i normali dosaggi degli ormoni tiroidei e del TSH perché rientrano nel range di normalità, ma è la continua stimolazione da parte soprattutto di questo ormone TSH che fa crescere la tiroide e non vale la pena misurarlo perché si parla di apporto iodico non per il singolo individuo, ma per tutta la popolazione della zona in cui quell'individuo vive, perché l'apporto di iodio può variare da un giorno all'altro, quindi misurarlo non avrebbe senso. Non se avrebbe... io non mangio il pesce, magari ce l'ho nelle urine, lo iodio si misura nelle urine, se invece non mangi il pesce da una settimana magari ce l'ho più basso, quindi non è importante. Non è quello, però noi questo pizzico, no? Bastano dei pizzichini a far star bene la nostra tiroide, si accontenta di poco, però insomma è così importante. Il nostro slogan è poco sale ma iodato, bisogna superare i 5 grammi al giorno di sale in assoluto, qualsiasi tipo di sale, e se lo dobbiamo introdurre, per esempio il sale fino, quello che usiamo sia cotto che a crudo, dobbiamo prenderlo iodato, quindi acquistiamo il sale iodato, soprattutto per i nostri figli, perché la cosa funziona soprattutto nei bambini, in coloro che devono ancora sviluppare la propria tiroide. Nei soggetti anziani che hanno già i noduli della tiroide, mangiare il sale iodato non fa alcuna differenza. Allora, diamo anche qualche avvertenza d'uso. Fino, grosso, vanno bene entrambe, si usano a crudo, possiamo anche aggiungere in cottura, perché ad esempio un ascoltatore ci scrive: il sale iodato alle alte temperature diventa sale normale, quindi è inutile utilizzarlo. Professore, e poi un'altra domanda di Gabriella. Ma per quanto tempo il sale si conserva iodato nelle confezioni? Perché sta lì e magari se ne va. Professore, lo iodio se ne va o resta? Queste sono tutte buone domande. È vero che l'alta temperatura può farlo sublimare più che evaporare, sublimare. Vedi, sublimare, vedi. Idem per una confezione di sale che rimane troppo a lungo, non ben conservata e quindi si può sublimare, quindi diminuire il contenuto di iodio. Comunque un po' ce n'è sempre. Quindi il mio consiglio è quello di acquistare il sale iodato e basta. Non senta, però allora qua apriamo una grande parentesona, non si dice grande parentesona, un grande capitolo. Allora, noi sappiamo che la tiroide, lei è intervenuto tante volte in trasmissione, ma poi è un problema abbastanza diffuso, può iniziare a funzionare troppo poco, no? Di solito rallenta un po' il passo, funziona meno di quanto dovrebbe, e questo porta a disturbi della memoria, del tono sono dell'umore, ad un rallentamento del metabolismo e quindi anche a quella difficoltà a perdere peso e potrebbe anche giustificare anche un colesterolo un po' elevato. E in questo caso si prescrive una terapia che va a integrare quello che manca, si assumono gli ormoni tiroidei. Ma questa persona deve continuare ad aggiungere sale iodato? E la stessa domanda gliela faccio per chi invece ha un problema opposto, quando la tiroide vuole fare tutto lei, no? E quindi si inizia a lavorare. In questo caso, se io uso sale iodato, non è che rischio di peggiorare la situazione? Sono ottime domande, ma il consumo di sale iodato noi lo guardiamo, come ho detto prima, sull'intera popolazione e non sul singolo. Bisogna fare un discorso di rapporto di vantaggi, di benefici. Sì, ma io vorrei dare, professore, anche delle indicazioni agli ascoltatori che mi scrivono. Sto assumendo la terapia, ma il sale iodato lo prendo o no? Sì, se c'è una persona che non ha più la tiroide, perché per esempio ha incontrato un chirurgo che gliel'ha tolta, ovviamente non ha bisogno di sale iodato, non ha la tiroide, non deve produrre i propri ormoni tiroidei, introduce gli ormoni dall'esterno e quindi il problema è risolto. Idem per il soggetto che ha un eccesso invece di funzione della tiroide, l'ipertiroidismo. Se io gli do un eccesso di iodio, ovviamente do la benzina a questa tiroide per funzionare di più e potrebbe aggravarmi la condizione di ipertiroidismo. Ma quando si fa il discorso sull'intera popolazione, quello che si è visto è che più che avere un aumento dei casi di ipertiroidismo dovuto al fatto che magari avevo somministrato iodio a soggetti che potenzialmente potevano sviluppare questo ipertiroidismo, si è assistito invece nelle zone dove è stata applicata la iodoprofilassi a una riduzione dei casi di ipertiroidismo, perché è diminuito il gozzo, sono diminuiti i noduli e sono diminuiti i noduli che funzionano di più. Quindi su tutta la popolazione deve essere fatto il discorso. Ecco, un discorso su tutta la popolazione, ma cuore denari cagliamo anche nel caso personale. E il professor Pontecorvi ha dato delle indicazioni per chi la tiroide non ce l'ha più, perché ha avuto una diagnosi di ipertiroidismo, cioè ha una tiroide che funziona molto velocemente, e invece per chi ha una tiroide che funziona poco. Professore, tra l'altro avevamo parlato di terapia, cioè dell'assunzione di ormoni tiroidei. Adesso state un po' rivedendo il modo di somministrare la terapia, non solo per l'ipotiroidismo, ma anche per i noduli e per il cancro della tiroide. Ci aggiorna rapidamente e poi passiamo agli uomini? La terapia dell'ipotiroidismo sostanzialmente è rimasta la stessa, la si fa in maniera un po' più precisa perché disponiamo della possibilità di misurare l'ormone TSH con cui si valuta l'efficienza di questa terapia in maniera molto più precisa di 20 anni fa. Ciò che è cambiato è invece proprio l'uso degli ormoni tiroidei a scopi soppressivi, come si usava fare nella terapia del nodulo della tiroide e nella terapia del cancro della tiroide. Si è scoperto dosaggi eccessivi e che spesso non avevano alcun significato perché non producevano gli effetti sperati. Oggi si è visto che noduli di grosse dimensioni è inutile che vengano trattati con ormoni tiroidei in eccesso. Forse la terapia è da applicare sempre in senso profilattico per prevenire che essi crescano a noduli più piccoli e soprattutto in pazienti giovani, per evitare che quei noduli piccoli aumentino di numero e aumentino di volume. Idem per il cancro, un tempo si usava a tenere il TSH basso, soppresso, perché il TSH è l'ormone che fa crescere le cellule tiroidee, quindi anche le eventuali cellule cancerose rimaste. Si è visto che questo non è più necessario, gran parte dei tumori della tiroide sono indolenti, guariscono e non hanno quindi bisogno di queste terapie esagerate, ma si fa in molti casi di tumori a basso rischio una terapia come si farebbe in un soggetto che è stato operato per un nodulo tiroideo benigno. Ecco, questi sono gli aggiornamenti che vogliamo che mettere, no, a vostra disposizione, e anche, professor Pontecorvi, un'indicazione per gli uomini, perché si dice che la tiroide donna, perché si accanisce su di noi, ma qualche anno fa uno studio multicentrico compiuto in sinergia tra l'endocrinologia aquilana, le cattedre di Modena, Roma e Firenze e soprattutto pubblicato su una rivista scientifica, ha sottolineato una relazione piuttosto stretta tra il malfunzionamento della tiroide e problemi sessuali maschili. Quindi la tiroide, diciamo che è una ghiandola democratica. Che cosa devono sapere gli uomini all'ascolto? È democratico, ma preferisce le donne. Vabbè, professore, su, anche gli uomini. Anche perché questo mi aiuta a ricordare ai nostri ascoltatori che domani torna l'appuntamento di Salute Uomo, certo, con un giorno d'anticipo, per cui vi aspetto. Professore, quindi... Nell'uomo è più frequente, 7-8 volte più frequente della donna che nell'uomo. Nell'uomo si è visto che per esempio le disfunzioni l'ipertiroidismo, cioè quando la tiroide funziona di più, si associa a una disfunzione erettile anche di grado severo. Quindi l'ipertiroidismo causa proprio problemi di erezione. L'ipotiroidismo invece sembra essere correlato più con la spermatogenesi, cioè con la formazione degli spermatozoi, ritardando la maturazione delle cellule germinali che danno poi origine agli spermatozoi. Quindi nel primo caso, nell'ipertiroidismo, si tende ad avere più una disfunzione erettile, nel secondo caso più un problema di infertilità. Vedi, quindi noi di solito donne diamo la colpa alla tiroide quando ingrassiamo, no? E non riusciamo a dimagrire. Adesso voi uomini avete una scusa in più, date anche voi la colpa alla tiroide, ma occupatevi della vostra salute. Professore, un'ultima domanda. Abbiamo parlato di ormoni tiroidei, si trovano anche in alcuni prodotti cosmetici, è così? Lei che cosa ne pensa? Non ne penso male, però dico che servono a poco. Vengono usati in due modi, vengono usati per via orale per dimagrire, quello è sbagliato, quello è profondamente sbagliato, perché l'ormone tiroideo è vero che stimola il metabolismo delle cellule, ma fa perdere soprattutto massa magra, ci fa perdere i muscoli, e quando noi finiamo con questo tipo di terapie, in genere si trovano in questi cocktail dimagranti che vengono prodotti su preparazione galenica dal farmacista, quando noi terminiamo la terapia ci ritroviamo con meno muscoli, quindi con minori possibilità di bruciare calorie e quindi ringrasseremo inevitabilmente. Quindi è proprio strategicamente sbagliata proprio come terapia. Per quanto riguarda invece le creme anticellulite che vengono utilizzate, ce ne sono alcune famose, io credo che l'effetto degli ormoni tiroidei sia molto blando e ci sono degli studi che lo dimostrano. Quindi, palmandosi queste creme, gli ormoni tiroidei in circolo non variano assolutamente, perché la pelle si protegge, la pelle possiede degli enzimi che scendono. La pelle è intelligente. È femmina pure lei, professore. Ma ecco, lei ha toccato un tasto Dolens, cellulite. E allora che adesso la tiriamo in ballo non solo per la tiroide, perché questa è la sua stagione e noi siamo molto sensibili. E a proposito di cellulite, è uscito un libro che io vi consiglio, si chiama Guida cinica alla cellulite, cinica come la sua autrice, l'estetista cinica, alias Cristina Fogassi, che è in linea con noi. Ciao Cristina! Buongiorno. Buongiorno. Allora, voglio abbracciare il professore. Mandategli un abbraccio da parte mia per quello che ha sdoganato. Senti, però ecco, soprattutto ricordati, devi dirgli però se lui si lascia abbracciare se tu gli dici che usi sale iodato. Usi sale iodato? No, subito, vado a comprarlo oggi stesso. Brava. Allora, cellulite, abbiamo un minuto, ma poi con Cristina ci ritroviamo anche sulle pagine di Cuore Denari. Oltre a chiamare Chuck Norris, come dice l'estetista cinica, che cosa puoi fare per la nostra cellulite, Cristina? Allora, diamo tre dritte veloci. Sì, abbiamo un minuto. Anche due. Per queste informazioni fondamentali per la nostra estate. Va bene, grazie, dai. Grazie per la tolleranza. No, perché allora, i mercati vanno su e giù, ma la cellulite no, si fica lì. Salta solo lì. Esatto. Allora, verificare innanzitutto l'appoggio del piede se si hanno problemi di microcircolazione. Venuzze capillari ci devono sempre insospettire per il fatto che possono essere il sintomo visibile di una microcircolazione che funziona male e spesso la causa è un appoggio plantare errato. Questo ce lo dicono in pochi. Quindi il piede piatto, cellulite. Non va bene, ma nemmeno il piede cavo. Il piede nostro. Non solo, ma tante volte poi, visto il piede non ha nulla, nel senso che in ortostatismo ferme il piede non ha problemi, mentre invece è nella camminata che carichiamo male. Quindi l'appoggio plantare va fatto sì statico, ma anche dinamico, perché c'è chi ha un piede perfetto però cammina in maniera sbagliata, quello che si chiama vizio posturale, ok? E anche questo è causa di cellulite. Di conseguenza questa cosa, scegliere le attività fisiche con criterio, quindi non per tutte va bene correre, siccome con la remise in forma adesso vedo tutte che si infilano tutine fosforescenti per andare a fare le runners impazzite, se si appoggia male il piede correre può essere deleterio per la cellulite. Ecco, perché la cellulite mia non ne fa un baffo. Correre deleterio. No, può essere deleterio, sì, perché l'impatto violento della pianta del piede sull'asfalto pompa già il piede funziona male, quindi questo pompaggio avviene anche in maniera troppo traumatica. Quindi vedi che la cellulite bisogna trattarla alla radice, dopo che ci ha spiegato. Sì, senti, certo, Cristina, allora lasciamo, poi andiamo subito ai mercati. Tre consigli alle amiche all'ascolto. Il trattamento più di moda, vogliamo sapere. Ma quello che negli ultimi anni si sente più nominare è sicuramente l'ultrasuono a cavitazione, che è questo nome che secondo me piace molto. Piace il nome, ma poi fai effetto. Ma in realtà sulla cellulite poco, serve invece per le adiposità localizzate, però tutte lo usano sulla cellulite e poi non si trovano bene, ma perché è sbagliato proprio la base. Le adiposità localizzate sono quei cuscinetti ai lati dei fianchi che noi donne diamo. Sì, tanto. Guarda, non andare a descrivere oltre che lo sappiamo. Ma tu cosa dici? Poi, ma... il trattamento che funziona meglio? A me piace molto la tecnica Rulli, quindi si chiama LPG il trattamento più famoso, l'altro trattamento molto famoso è Icun e il massaggio. Secondo me massaggio fatto con le mani o con la tecnica Rulli è un trattamento molto molto efficace. Siamo a cuore denari e quindi vogliamo anche sapere il trattamento più economico ma naturalmente grazie. Efficace. Ma vi dico una cosa che avete tutti sentito nominare, la prestoterapia. La prestoterapia è un trattamento banale, economico, perché ormai la si trova veramente a poco. E comunque se non si hanno budget da investire in altro può dare sicuramente un sollievo durante la stagione estiva. Vedi, adesso il professor Pontecorvi, oltre a sapere tutto e di più sulla tiroide, adesso sa anche tutto sulla cellulite, professore. Può sempre servire come argomento di conversazione. Lei può dire esatto, la sua. Con le sue pazienti che vanno da lui perché si sono magari un po' arrotondate sostenendo che si tratta della tiroide, lui può dire no, guardi, no, vada da Cristina piatto. Fogassi, fa un po' di pressoterapia che vedrà che funziona quella. Allora, intanto il professor Pontecorvi si è beccato l'abbraccio, Cristina Fogassi si è candidata ad abbracciarlo, lui non ha detto non ha fatto un plissé. Era emozionato. Professore, era emozionato? Aspetta. E poi anche complimenti dei nostri ascoltatori. Grazie al professor Pontecorvi, grazie a Cristina Fogassi, estetista cinica. Ricordo il titolo del suo libro. Guida cinica alla cellulite. E la sentiremo presto per altri preziosi consigli. Come adesso, quelli dei mercati, esatto, che non hanno la cellulite. No, no, però ogni tanto un po' di cinismo lo manifestano, a tra poco. JP Morgan Asset Management vi presenta Cuore e Denari. Allora, qua intanto ci siamo ricordati di questo artista eccezionale che da qualche mese non è più tra di noi e questa è una delle nostre canzoni preferite. Oro. Allora, ad ogni puntata di Investire Informati, con la quale torniamo domani, Nicoletta, ti preannuncio già che ci sarà un nuovo ospite nel giro degli ospiti che ci fanno compagnia a spiegarci i fatti finanziari, sarà Carlo Giausa, direttore investimenti di FinecoBank, e questo volevo anticiparlo per tutti gli ascoltatori, anche perché è una rete che ha tantissimi promotori finanziari sul territorio che sono interessati appunto anche a sentire un po' a cuore denari come raccontiamo i temi di mercato. Ma ad ogni puntata di Investire Informati, tornando a noi, ci sono sempre alcuni ascoltatori che ci scrivono o chiamano chiedendoci: ma insomma, che ne dite di proteggersi da questo nervosismo sui mercati, dalla volatilità, investendo in qualcosa di concreto e solido? Bello. Tipo? Ecco, un bel lingottone ad esempio. Allora, l'oro è ritornato effettivamente ad essere un po' rispolverato dagli investitori. Le quotazioni sui mercati finanziari stanno viaggiando ormai stabilmente da molti mesi fra i 1200 e i 1300 dollari l'oncia. Intanto cercheremo di capire cosa significa questa quotazione. In passato è arrivata molto più in alto, ma è anche precipitata altrettanto rapidamente in molte occasioni, per cui prima ragione per indicare e suggerire della cautela investendo sulle materie prime è questa. Questi mercati sono sempre molto suscettibili, per cui attenzione. Però ci sono vari modi per investire in oro, ci sono i fondi di investimento, ci sono gli ETC, che sono gli ETF che investono in commodities, cioè in materie prime, ci sono le azioni delle società che estraggono l'oro in tutto il mondo e poi c'è l'oro fisico, appunto, come diceva Nicoletta, il lingottone, ma ci sono anche i gioielli. Beh, questi ci piacciono, le monete. E ci sono le monete, che forse sono un po' l'investimento più gettonato, ma insomma quella di Paperon de Paperoni. Esatto, quando si tuffava, esatto. Tra l'altro sai che fra un po' scompariranno le pubblicazioni di Topolino, ho letto anche questo, pensa stamattina che quante notizie fondamentali stiamo dando. Allora, detto questo, non so se lo sapeva il nostro ospite di stamattina, adesso glielo chiediamo, abbiamo scomodato per l'ABC dell'investimento in oro fisico un amico di Cuore e Denari che non chiamiamo spesso, anzi è da moltissimi anni che non chiamo, ma so che è un grande affezionato ascoltatore del nostro programma. Buongiorno a Roberto Binetti, amministratore delegato di Confinvest, che è una società che peraltro, oltre a essere, come dire, intermediaria nell'oro fisico, adesso ci racconterà nel dettaglio, è anche la società che fornisce le quotazioni quotidiane dell'oro al Sole 24 Ore e all'agenzia del Sole 24 Ore Radio. Corbinetti, ho detto tutto? Buongiorno. Buongiorno. Grazie. E allora, naturalmente per tutti quegli ascoltatori che ho richiamato prima e che non abbiamo accontentato dando le risposte che volevano nelle passate trasmissioni, oggi li reinvito se vogliono a candidarsi ad intervenire in diretta all'800240024 per farci le loro domande su questa tipologia di investimento. Segnalo anche che per dare tutte le informazioni di servizio necessarie, che il 10 maggio scorso è uscita la guida I tuoi soldi, corso pratico di educazione finanziaria proprio sul tema del mercato di oro e gioielli, che è stato quasi tutto interamente curato da Andrea Gennai, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore. C'è una parte, ce l'ho sotto gli occhi, la guida, molto importante e dettagliata appunto sull'investimento in oro. E oggi, sai che faccio? Ne regalo una copia a chi risponde al nostro domandone. Dai, il domandone, dai. L'ho riesumato e lo faccio subito. Se la guida non ci abbiamo la sigletta, ma poi magari la troviamo faccio io. Più tardi. Ta-da-da. Esatto, di rischia tutto. Allora, come si chiama, se lo sapete, il mercato di Londra dedicato all'oro e all'argento? Eccola qua. Vedi? Basta, non dico altro, fate attenzione perché ce ne sono due di mercati dove vengono scambiate le materie prime a Londra. In una un mercato è dedicato esclusivamente ad oro e argento, nell'altro invece vengono scambiati tutti i metalli ad eccezione di oro e argento. Io voglio sapere come si chiama quello dove vengono scambiati oro e argento. Tutte e due. No, sì, oro sì, l'oro e argento, esatto, brava. Allora, ho vinto qualcosa? Se vuoi ti regalo la guida, prima però mi serve per fare l'intervista a Binetti. Adesso la tengo anch'io per un'altra ventina di minuti. Binetti, ho recuperato una notizia molto carina che ci aveva incuriosito un anno fa, quando eravamo allo sbaraglio completo per la crisi greca. Ci siamo spaventati un po' tutti perché c'era grande nervosismo anche un anno fa in questo stesso periodo appunto sui mercati, e molti italiani avevano cominciato a prendere d'assalto i distributori automatici di oro di Milano Linate, Bergamo, Orio al Serio, sono proprio collocati lì agli aeroporti e addirittura distribuiscono appunto dei lingottini di bassa grammatura e monete da 22-24 carati. Allora, esatto. Io mi chiedo, intanto, ci sono ancora? Lei aveva sentito parlare di questa notizia? Che cosa ne pensa di chi addirittura faceva questo investimento lì all'aeroporto? Ma sì, sicuramente è un acquisto molto logico in questo momento, stiamo giocando a Monopoli ormai al mondo, carta su carta, un po' di oro fisico ci vuole nei propri No, ma il fatto di farlo lì direttamente all'aeroporto piuttosto che venire magari da un intermediario... Non si può definire un investimento l'acquisto di 5 grammi d'oro, è chiaro che quelli sono più cadeau o sono delle regalie che si fanno quando si raggiungono degli amici o dei conoscenti all'estero. C'erano è anche chiaro che l'investimento in oro è un'altra cosa, i volumi sono diversi. E certo, c'erano anche, se ci sono ancora non lo so perché io non li ho visti, questi distributori, foglie d'acero canadese, ovviamente in oro. Dottor Binetti, ecco, andiamo invece all'investimento, come dire, quello di cui si occupa lei. Allora, quale forme di investimento in oro preferiscono i risparmiatori italiani? Lei riesce a monitorare? Ma in oro fisico sicuramente oggi come oggi vengono premiate molto di più le sterline oro Elisabetta II che non i lingotti, per una maggiore facilità di vendita futura, ma non solo in Italia, in tutta Europa e anche in America gli stessi investitori acquistano monete, non più lingotti o lingottini, è la stessa cosa presso poco, però di fatto noi notiamo che viene premiata notevolmente la sterlina oro e non il classico lingotto, ripeto, per la maggiore facilità in caso di monetizzazione futura. Certo, andiamo però all'ABC di entrambe le tipologie di prodotto oro per investire appunto. Cominciamo con i lingotti. Che cosa troviamo, dottor Binetti, sul mercato? Intanto riporto un po' quello che scriveva Andrea Gennai sulla guida che ho citato prima. L'oro fisico da investimento, secondo la legge italiana, deve avere delle caratteristiche ben precise. Lingotti o placchette di peso superiore ad un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi. Cosa significano questi parametri? Dunque, è stata recepita una norma europea all'inizio del 2000, la famosa legge 7-2000, che considera questo materiale da 900 millesimi a salire beni da investimento. Pertanto tutte le monete e i lingotti con un titolo, con un agio da 900 a 1000 vengono considerati beni da investimento. Tra l'altro stavo pensando ieri quando leggevo questa precisazione di Andrea sulla guida che un lingotto è mediamente superiore ad un grammo, che è molto piccolo. Invece leggevo che i più diffusi vanno da 2 a 10 grammi? No, in Italia meno. Cioè, ripeto, vengono utilizzati solo per forme di edicalistica, non certo per forme di investimento. Oggi come oggi noi pensiamo che nei propri asset un investitore, un risparmiatore deve avere almeno un 10-15% di oro fisico. Pertanto faccia una media di 30-40 mila euro di investimento tipo che noi formuliamo ogni giorno agli investitori. Ah, e quanti grammi sono in lingotti, dottor Binetti? All'incirca normalmente si investono da 50, 100, 200 sterline oro. Tenga presente che la sterlina ha un peso di circa 8 grammi, pertanto è facile fare il conteggio. E per il lingotto invece? 30-40 mila euro, esatto, quanti lingottini? Se non sono autorizzati alla legge 7-2000, però non possono trattare questa tipologia di materiale, non possono trattare né monete d'oro né lingotti, bisogna stare molto attenti. Senta, se si compra oro, se non sono autorizzati, non possono trattare questo materiale. Dove lo conserviamo il lingotto una volta che abbiamo scelto questo tipo di investimento? A parte magari l'intermediario che ce lo vende, non so, per esempio lei li conserva i lingotti su cui investono i suoi clienti? Ma di solito non li consegniamo, il cliente normalmente quando fa un investimento in oro fisico lo vuole direttamente a casa. Quindi si porta il lingottino a casa? Oppure magari in una cassaforte in banca? Il materasso a casa, in cassetta di sicurezza. Ogni tanto lo accarezza? Esatto, lingottino mio! In momenti come questo. Lo mette nella e ci fa il bagno come Paperone dei Paperoni. E la pelle, sai, migliora. Esatto. Senta, allora, lei prima ci faceva la differenza fra il grado di rivendibilità tra la moneta appunto e il lingotto. Allora, perché il lingotto è un po' meno liquido rispetto alle monete d'oro? Ma perché normalmente al lingotto viene sempre fatto il saggio. Raramente si sfida del lingotto e pertanto la società che fa intermediazioni, che acquista il lingotto, normalmente vuole vederci chiaro, vuole vedere la purezza e pertanto chiede tempo per fare il saggio, per rifonderlo. Perciò ecco la motivazione, ma ripeto, non è una motivazione solo nazionale, proprio europea. Proprio certo. Tra l'altro, guardi, adesso devo andare al traffico, ma poi se i ragazzi vorranno appunto potranno prendere un ascoltatore che è candidato ad intervenire questa mattina, Bruno da Napoli, che voleva proprio chiedere chiarimenti al proposito del prezzo che si può stabilire quando, una volta che si ha l'oro, appunto lo si deve rivendere, se si ha necessità. Adesso vediamo il nostro Bruno da Napoli se si riferisce ai lingotti o alle monete o al tradizionale vecchio gioiello, peraltro quello già neanche ci piace più tanto come gioiello. Ma no? Io ti devo dire che tu non bianco, ti giallo, disdegni. No, se io volete preferisco sono quello qua. Bianco. Binetti, qual è quello più gettonato, il giallo o il bianco? Secondo non è il nostro genere di attività, ma sicuramente il giallo ancora. Il giallo ancora. Allora, adesso andiamo in pausa, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi andremo alle monete, perché qui peraltro dobbiamo rispolverare il concetto del fior di conio, di cui abbiamo già parlato in precedenza in una puntata con un nostro esperto di investimenti in arte e non solo, anche in banconote e monete, e con Alex Richebuono, e quindi cercheremo di capire in merito all'oro che cosa significa questo concetto e poi quali sono anche i caratteri distintivi delle monete sulle quali vogliamo investire, quelle che naturalmente, quei caratteri a cui dobbiamo fare attenzione per fare un buon investimento in questo campo. Cuore e denari. Mango a Sting per parlare di oro questa mattina. E allora, in queste fasi di mercato molto nervose, i risparmiatori italiani ed internazionali riscoprono l'investimento in oro, un investimento che si può fare sotto forma di investimento diretto finanziario, fondi di investimento, ETC, azioni delle società aurifere, oppure si va invece al sodo, al concreto, quindi lingotti, monete, oltre che naturalmente il tradizionale gioiello. Oggi abbiamo fatto un punto della situazione con Roberto Binetti, amministratore delegato di Confinvest, sul lingotto nella prima parte, adesso andremo invece alle monete. Ma se abbiamo la sigletta, Carmelo, io darei anche di nuovo il quizzettone di oggi. Come si chiama il mercato di Londra dedicato esclusivamente all'oro e all'argento? Non confondetelo con l'altro mercato, che è sempre a Londra, dove invece vengono scambiati tutti i metalli, ad eccezione di oro e argento. Quindi se volete guadagnarvi la guida, che oggi mettiamo in palio i tuoi soldi, corso pratico di educazione finanziaria del mercato di oro e gioielli, perché ho deciso che regalerò questa, chiamateci all'800 24 00 24. Abbiamo appreso anche che la notizia della chiusura di Topolino era una bufala nella quale sono caduta in pieno. Detto questo, andiamo a Bruno da Napoli e poi sentiamo Roberto Binetti che cosa gli dice a proposito di queste perplessità sulla compravendita di oro. Bruno, buongiorno. Pronto? Sì, ci siamo. Salve, buongiorno. La domanda era questa: sono un addetto al lavoro nel settore finanziario e spesso mi sono imbattuto su richieste dei clienti per l'acquisto anche personale di oro, giusto per diversificare l'asset. Certo. Però attraverso, diciamo, un dialogo e un approfondimento con gli addetti ai lavori nel settore, diciamo, orafo, mi sono imbattuto in questo genere di difficoltà, cioè chi deve rivendere l'oro, e parliamo sia di lingotto, che al quale bisogna fare un saggio, piuttosto che alle sterline, che sono quelle più deputate diciamo, all'investimento superiore alla grammatura. Spesso, e soprattutto da queste parti, ci si imbatte in un prezzo di compravendita diverso dal valore reale del oro, e quindi questo di fatto diciamo pregiudica la redditività e la diversificazione di questo investimento. Quindi volevo sapere se clienti, piuttosto che personalmente, come consiglio da dare, c'è un ente, un'organizzazione oppure dei... alla quale, diciamo, fa il riferimento per avere ok il prezzo giusto, come dire, no? Bruno, la ringrazio. Allora, dottor Binetti, funziona per l'oro anche un po' come per, non lo so, azioni ed obbligazioni? Tu le compri ad un certo prezzo, poi quando è il momento di rivendere è chiaro che tu ci vorresti aver guadagnato, ma magari potrebbe anche non essere il momento buono di mercato, quindi andarci in perdita. Quindi se devi vendere, vendi appunto in perdita. Per l'oro vale la stessa cosa? Ecco, quando è il momento di rivendere, il prezzo chi lo stabilisce? C'è un denaro, una lettera, ecco, delle quotazioni che vengono riportate da Sole 24 Ore, appunto. C'è un denaro, una lettera con una forbice abbastanza ampia, volutamente ampia, per rendere più trasparente tutto il mercato italiano. Ovviamente poi sta nell'operatore stringere questa forbice al limite per cercare di far guadagnare il più possibile il venditore. Questo è normale nel nostro settore, dipende sempre però dalla serietà dell'operatore. Certo. Tanto affidarsi solo esclusivamente a operatori autorizzati dalla Banca d'Italia. I pagamenti devono essere per forza immediati, non certo pagamenti dilazionati nel tempo, mai lasciare il materiale in conto vendita, insomma, ci vuole un po' di quindi senta, la risposta che secondo lei Bruno dovrebbe dare ai clienti che esprimono a lui queste perplessità, quale dovrebbe essere la risposta affidarsi corretta? Affidarsi ad operatori specializzati di notevole professionalità, di garantita professionalità, ecco, di serietà assoluta. Andiamo alle monete. Allora, la moneta fior di conio, che caratteristiche ha? La moneta fior di conio è una moneta che di fatto non ha mai circolato, ce ne sono poche di monete fior di conio in circolazione, solo le sterline Elisabetta dal 2000 in avanti, che vengono sigillate dalla Royal Mint e rivendute sigillate, pertanto fior di conio. Tutte le altre monete, le cosiddette monete di borsa, sono monete di prima, eventualmente di prima qualità, ma non certo di fior di conio. La moneta di investimento più diffusa al mondo è la sterlina d'oro, come lei ci diceva, l'Elisabetta II. Ve ne sono però anche altre importanti, leggevo il Krugerrand sudafricano, il Liberty americano, il Marengo. Il Marengo, anche in particolar modo il Marengo italiano, che potrebbe avere nel tempo anche una valenza numismatica, sì. Quanto vale? Le dirò che però nell'immaginario collettivo mondiale la sterlina è sempre la sterlina. È infatti l'intramontabile regina Elisabetta II, insomma, da ogni punto di vista. Anche nelle monete d'oro. Qual è il taglio minimo di investimento per puntare sulla regina, dottor Binetti? Ma, ripeto, noi consigliamo sempre un 15-20% su tutto il mobiliare posseduto. Tanto non c'è una regola fissa, però normalmente noi notiamo che la nostra clientela, gli investimenti medi vanno da 15 a 50-100 mila euro in monete d'oro. Abbiamo i nostri ascoltatori che sono pronti a rispondere al domandone che abbiamo fatto oggi. Sentirei Gianfranco da Napoli se sa qual è il mercato di Londra dedicato ad oro ed argento. Gianfranco, buongiorno, veloce. È il London Bull Market. Bravo Gianfranco. Grazie, grazie. Aveva ben risposto anche Gabriele da Pavia, e quasi quasi io di guide ne spedisco un paio. Che dice? Sì, volentieri. Esatto. Non potendo regalare un lingotto di Binetti, andiamo con le nostre guide. Dottor Binetti, volevo assumere. Esatto, no, volevo raccontare la vostra iniziativa, perché in realtà voi avete pensato anche all'investimento in oro per costruirsi la pensione. Ecco. Non le sembra un po' azzardata questa idea? Che cosa c'è in concreto? No, stanno arrivando adesso 7 milioni di buste arancioni. Ne abbiamo parlato tante volte, quindi dentro non ci sono lingotti. Insomma, sia per quanto riguarda il contenuto, per quanto riguarda il periodo temporale di scadenza e per quanto riguarda quello che poi il pensionato andrà a recuperare alla fine. E noi abbiamo pensato di inserire in una logica, proprio in una ratio di pensionamento, un piano d'accumulo volontario in oro fisico. Mm. Pertanto senza vincoli, senza commissioni, nessun vincolo temporale, certo. E con comunicazione periodica concordata. Ho 46 anni, andrò in pensione fra 20-25 anni, non lo so quanto mi consiglia di mettere... Non andrò mai in pensione. Ma volendoci andare, quanto devo mettere da parte il lingotto? Perché dovrei mantenere anche me. Esatto. Cosa mi suggerisce? Ma noi suggeriamo almeno 5.000 euro all'anno in oro fisico. Grazie a Roberto Binetti di Confinvest per essere stato con noi. E poi dove andremo con tutti quei lingottoni? Con tutti quei lingotti, non lo so, stiamo a casa perché pesano. Grazie, noi ritorniamo domani alle 10.30 qua insieme. Buona giornata.